Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica a tutte le imperfette e gli imperfetti che ci seguono e che come me tentano, ci provano tutte le volte a dire il multitasking è una fregatura. Sono 3 anni che vi affliggo con questo mantra e sono 3 anni che lo faccio sostanzialmente anche per me, incapace di mettere ordine tra le tante cose che faccio, però ci provo e devo dire che tutte le domeniche ricordarlo a tutti noi forse qualche effetto lo sta avendo, anche perché lo sapete, multitasking, riempirsi la vita di cose e poi finire per non farle tutte bene o per avere sensi di colpa per non averle neanche cominciate, è qualcosa che fa addirittura male al cervello. E non lo dico io, lo dicono all'MIT. Di che parliamo oggi? Beh, non di una cosa proprio positiva, perché nonostante da anni si continui a ribadire che avere un eguale trattamento economico, un eguale trattamento professionale tra uomini e donne fa bene all'azienda e fa bene all'economia, in realtà pare che addirittura si stia tornando indietro. E lo certifica il report annuale del World Economic Forum, l'ultimo Global Gender Gap Report, che colloca l'Italia all'82esimo posto su 144 paesi. Pensate, un crollo, c'è stato un crollo verticale di ben 32 posizioni. Nel 2015 l'Italia era al 41esimo posto e ora è all'82esimo, cioè siamo sotto il Burundi, sotto la Mongolia, sotto l'Uganda. Che è successo? Che è successo a tutto quel gran parlare di parità tra uomo e donna professionale? Se n'era discusso, si erano addirittura segnalati dei passi avanti clamorosi dell'Italia rispetto al resto d'Europa, perché con la legge Golfo Mosca le donne erano entrate obbligatoriamente nei consigli di amministrazione delle società quotate. Ebbene, saranno entrate nei consigli di amministrazione, ma per il resto siamo andate molto indietro. Ripeto, nel 2015 l'Italia era al 41esimo posto per quanto riguarda il divario di genere e oggi siamo all'82esimo. Ecco, voglio proprio sapere che cosa pensa di questo crollo italiano, perché dal 41esimo all'82esimo posto in 12 mesi è una cosa incredibile, e a certificarlo è il World Economic Forum, non è l'ultima organizzazione di questo mondo. E voglio saperlo dal nostro agente provocatore di questa domenica, Roberto D'Agostino, Mister Dagospia, dal 7 novembre di nuovo su Sky Arte con 10 nuove puntate del suo imperdibile Dago in the Sky. Allora, D'Agostino, ma stiamo tornando indietro noi donne? Ma il problema non è tornare indietro, è che qualcuno deve anche avvisare che è in atto una nuova guerra mondiale, cioè uomini contro donne, donne contro uomini. Il caso Weinstein è solo la punta, no, dell'iceberg, come si dice. Ormai il conflitto sta diventando molto, molto pesante, e a questo punto la famosa uguaglianza tra i sessi, secondo me, andrà sempre peggio. Poi con un paese latino va considerato che è molto più, diciamo, elastico, flessibile il concetto. Nei però paesi, Roberto D'Agostino, tu parli di guerra, ma chi l'ha scatenata questa guerra, le donne o gli uomini? Chiaramente no, ma c'era un rapporto all'epoca molto sballato delle donne sottomesse agli uomini, su cui è poco ma sicuro. Chiaramente da sempre la donna ha avuto un ruolo, se cominciamo, di sottomissione, per non dire peggio. Tu hai detto il caso Harvey Weinstein, il produttore americano nella bufera per tutta una serie di denunce da parte di attrici, è solo la punta dell'iceberg. Qual è la relazione tra il caso Weinstein e la guerra tra uomini e donne della quale parlavi prima? Eh sì, perché questo Weinstein poi ovviamente ha degli aspetti anche un po' grotteschi, cioè non si capisce qual è il confine tra corteggiamento e conquista e molestia. Cioè, se io ti faccio un approccio, e quell'approccio che per me è seduzione, corteggiamento, per la donna diventa molestia e ti denuncio. A un certo punto diventa una cosa molto molto sgradevole per tutti i due sessi, no? Certo. In quanto l'uomo a un certo punto dirà: beh, allora andiamo a prostitute, andiamo a puttane e troviamo la nostra soddisfazione senza dover rischiare di finire in galera. Però è anche vero che secondo quanto affermano tutte queste attrici che a grappolo stanno denunciando Weinstein, questo non è che facesse degli approcci, come dire, dei corteggiamenti, questo violentava. Stiamo vedendo poi appunto vedendo il caso patologico di una persona malata che c'aveva la fila di ragazze che volevano avere la possibilità di incontrare il produttore numero uno, come ti assicurava l'Oscar, eccetera eccetera. Quindi tutti, vedi anche il caso di Asia Argento, 5 anni è durato poi gli incontri tra lei e il produttore, 5 anni di incontri, uno dovrebbe dire: ma scusate, adesso fa la martire, ma so, 5 anni di incontri, dopo uno che ti ha fatto schifo non lo vuoi più vedere, anzi lo denunci. E lei addirittura si è fatta pagare anche la babysitter da Weinstein. Allora, quello che ti voglio dire è questo: il problema è questo, non si può fare tutto un erbo un fascio, tutto un erbo un fascismo. C'è sta il caso Weinstein, poi ci stanno anche delle ragazze che usano il loro sesso come grimaldello per aprire le porte del successo, e ne abbiamo viste di tutti i colori da quando esiste. Da quando esiste proprio il business. Cioè, adesso c'è stata anche una parte che ognuno ha il suo prezzo, ognuno si vende, ognuno per avere la possibilità, ma in tutti i campi, se parlo in tutti i campi del lavoro, dal giornalismo al cinema, tutti hanno poi avuto la possibilità di poter avere una chance legata al proprio corpo. Allora a un certo punto è un po', capito, è molto facile fare. Sì. Vorrei tornare al nostro crollo iniziale. Qual è secondo te la ragione, se ne individui una, per cui l'Italia, che un anno fa era al 41, nel 2015, chiedo scusa, era al 41esimo posto nella parità di genere, e oggi scesa drammaticamente all'82esimo? Non so i parametri che usano costoro, non so, adesso l'Italia poi con la crisi economica, col fatto che c'è una disoccupazione fortissima, dove ovviamente poi c'è un maschio che deve riuscire a portare a casa uno stipendio e pagare le bollette. C'è anche la situazione di un paese che ha, dal punto di vista della disoccupazione, dei dati atroci, bruttissimi. Adesso siamo qui a parlare della parità, ma parliamo allora del lavoro. Tu dici, oggi quanto costa? C'è anche un discorso che il lavoro non c'è, e quindi a un certo punto forse preferiscono assumere un uomo che una donna. Bisogna anche avere questa possibilità di poter avere il denaro giusto per riuscire poi ad avere un figlio, due figli. Certo. Dai, abbiamo dal punto di vista demografico un paese che ormai è sotto zero. Senti. E appunto, quando dice arrivano i migranti sono gli unici che producono figli, sono loro che prenderanno prima o poi il posto. Ma tu, già in America abbiamo situazioni dove i bianchi producono figli in misura minima, e tutti gli altri popoli etnici stanno prendendo mai di fronte a questa visione, non proprio ottimistica, non ci rimane che ringraziarti, Roberto D'Agostino, di nuovo su Sky Arte con 10 nuove puntate dal 7 novembre in poi, Dago in the Sky. Grazie Roberto, grazie D'Agostino, grazie. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Nessuna è perfetta. Ecco, bentornati a Nessuna è perfetta. Lo sapete, questo è il momento della nostra Sunday Girl. Benvenuta, benvenuta, buona domenica alla Presidente della Camera, Laura Boldrini. Buona domenica, Presidente. Sì, buona domenica a lei e grazie di avermi incluso nel club delle girls. Sì, certo, certo, siamo tutte girls. Dunque, la notizia è di quelle, Presidente, che lasciano un po' smarriti, perché l'Italia, che solo nel 2015 era al 41esimo posto nel rapporto stilato ogni anno dal World Economic Forum sul gender gap, cioè sull'equilibrio di genere tra uomini e donne, è scivolata indietro un anno fa, nel 2016, al 50esimo, e ora è crollata all'82esimo posto. Addirittura siamo più o meno come il Burundi, la Mongolia e l'Uganda. Che stiamo tornando indietro è un fatto. Io le chiedo, Presidente, dal suo osservatorio, che risposta si dà? Come mai? Allora, è chiaro che è un divario insopportabile, inaccettabile, non contemporaneo, che merita tutta l'attenzione da parte della politica, delle istituzioni e di ogni segmento della nostra società. Io penso che per questo arretramento abbiano concorso più elementi. Uno, che paghiamo veramente il conto della bassa presenza delle donne nel mondo del lavoro. Purtroppo in Italia questo è ancora un problema, è un macigno, perché solo il 48% delle donne lavora. Ecco, l'altro 52% non è che sta a casa perché sceglie di stare a casa, ma non lavora perché non ha accesso al mondo del lavoro. Poi paghiamo come paese anche il conto di un welfare che viene interamente delegato alle sulle famiglie, spalle delle donne. Certo. E perché i servizi non sono adeguati, non sono abbastanza, ma anche perché gli uomini pensano di non avere responsabilità e obblighi domestici e dunque ancora oggi si sottraggono dal aiutare, dall'essere parte attiva anche delle, della gestione della famiglia, della famiglia di origine, ecco, Presidente, della propria famiglia. C'è un limite, anche questo pesa. C'è un limite anche nella mentalità di chi siede sugli scranni di, dei parlamentari, perché io ricordo che ci doveva essere un tesoretto frutto dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, che doveva essere usato per i servizi, per le politiche di conciliazione, per affrancare le donne dagli eccessivi carichi familiari, e poi invece sono stati dirottati verso altri lidi quei soldi. Sì, e non è solo questo, diciamo che noi paghiamo il conto di una politica che non mette questo tema al centro dell'agenda, cioè questo tema dell'avanzamento sociale ed economico delle donne è considerato come qualcosa di superato, che non merita attenzione e dunque è rilegato alle questioni di donne. Certo, invece, parlatene tra di voi, no? Sì, ecco. Ma invece questo non è un problema solo delle donne, è un problema del paese tutto e guardi, io sono convinta che la ripresa è donna, la ripresa è donna, quindi il nostro paese non si riprenderà senza uno sforzo nell'occupazione femminile, nel rilancio dell'occupazione femminile, senza una politica di welfare più incisiva e più capace di sgravare le donne, ma anche senza un'evoluzione del costume, della mentalità, della cultura, perché ancora i ragazzi oggi considerano che non è affar loro occuparsi della gestione della casa, è roba da donne. Allora, questa è una arretratezza culturale che pesa moltissimo sul nostro paese. Mi viene da chiedermi, il Parlamento italiano è formato soltanto per il 31% da donne. Nei ministeri la loro presenza è limitata al 27,8%. Io ho l'impressione che anche le donne che sono deputate, senatrici, anche le donne che hanno responsabilità altissime, a parte lei, Presidente Boldrini, quasi temano di essere viste come delle voci isolate, di finire nella nicchia delle veterofemministe se parlano di questi temi. Le donne di potere in Italia, penso anche alle giornaliste di potere, non si occupano di questi temi perché fa ghetto, fa serie B. Guardi, non solo fa quello che lei dice, cara Maria Latella, fa anche che uno si espone a degli attacchi molto violenti da parte di chi appunto ha tutto l'interesse a tenere le donne sotto scacco, attacchi sul web ad esempio, odio senza frontiera, odio senza limite contro chi osa alzare la testa e contro chi si ribella, perché vede, io per esempio riguardo anche alle questioni della rete, no? Di hate speech, di tutta questa valanga di odio. Io non ci sto ad abbassare la testa e a subire, quindi ho iniziato a denunciare queste persone e da quando ho enunciato e cominciato a denunciare i cosiddetti leoni da tastiera, si sono dati a gambe questi signori, sono diventati tutti conigli in fuga, è crollato il numero degli attacchi, della violenza, dei messaggi sconci, basta vedere i miei profili social, questo a dire che se le donne non si sottomettono e non accettano questo trattamento, ma vanno avanti a testa alta, allora riescono a governare i fenomeni violenti. Però e quindi, appunto devono essere, convinte, invito tutti, devono essere convinte loro per prime, no? Perché si continua a vedere, cito ancora il report del World Economic Forum, che al primo posto per la parità di genere si colloca l'Islanda e seguono poi gran parte dei paesi nordici, paesi che hanno economie molto solide, per cui è davvero una visione antica quella di chi pensa che la parità di genere sia una cosa da veterofemministe. La chiave della modernità e di un'economia ricca è proprio quella di far partecipare al massimo le donne. Ah, sicuramente, perché una società si può definire evoluta più o meno a seconda della posizione che le donne rivestono in quella società. Quella è la cartina di tornasole. Quando le donne sono relegate a casa o coperte con il burka, quella società è chiaramente retrograda. Quando invece le donne hanno non solo sulla carta ma anche nella vita gli stessi diritti e non subiscono discriminazioni, quella società è avanzata. Quindi noi vediamo che abbiamo un problema in Italia. Non solo in Italia, per carità, non solo in Italia, ma qui da noi ce l'abbiamo questo problema. Ma lei ha l'impressione... Il problema è proprio di non capire che mantenere lo status quo è a detrimento di tutto il paese. Senta, Presidente, lei ha avuto l'impressione in questi ultimi mesi che non ci sia soltanto un arretramento nel report del World Economic Forum, ma anche un arretramento nella società, che per esempio il pensiero sia: ma scusate, ma perché dobbiamo dare lavoro alle donne quando abbiamo tanti giovani maschi disoccupati? Faccio per dire. Questa è stata una delle considerazioni più prevalenti negli anni della crisi. Negli anni della crisi abbiamo visto anche questa forma di diseguaglianza, non solo la diseguaglianza, diciamo, territoriale che l'Italia purtroppo ha da sempre tra nord e sud, ma anche la diseguaglianza di genere, laddove se bisognava fare delle scelte erano le donne che ci rimettevano. Quindi il livello di disoccupazione delle donne è aumentato enormemente e al sud c'è la doppia discriminazione. Ci sono le donne meridionali che hanno la doppia discriminazione e quindi il tasso di occupazione è crollato al sud. Al sud solo mi pare che siamo intorno al 35% di donne che lavora, le altre non hanno occupazione. Senta, Presidente, in chiusura, lei dice non bisogna arrendersi, perfetto. Noi qui, nessuno è perfetta, cerchiamo di fare la nostra parte e di fotografare la situazione. Lei, dal punto di vista, diciamo, di persona che intende rimanere in politica, a proposito, parentesi, si candida? Questo che è il trabocchetto degli ultimi 5 secondi. Si candida? Ancora è prematuro parlarne. Vedremo. Però se continuerà a fare politica o nelle forme in cui riterrà di doverla fare, che cosa farà per fare in modo che l'Italia non rimanga all'82esimo posto, perché poi io non ci credo al fatto che le classifiche sono fatte con criteri manipolatori. Se stavamo al 40esimo posto 2 anni fa e siamo all'82esimo, è che perché qualcosa è cambiato nella nostra società. Allora guardi, io di questo tema ne ho fatto una bandiera, come lei sa, da osservatrice attenta. Nel mio discorso di insediamento qui alla Camera io ho parlato per la prima volta, penso non era mai successo prima, di violenza travestita d'amore, va bene? E coerentemente con quell'impegno e con quella assunzione di responsabilità io ho sempre portato avanti questo ambito di attenzionare le questioni che riguardano le donne, non solo la violenza ma anche il lavoro, anche il sociale e anche il linguaggio. Quindi io continuerò nelle forme che saranno possibili in futuro, come l'avevo già fatto prima di entrare in politica e prima di essere Presidente della Camera, perché intanto sono donna, perché ho una figlia e perché penso che sia doveroso non delegare a nessuno questo tema, e quindi lo faccio con convinzione e senza riserve. Se questo poi costa in termini di aggressione, uno lo deve, come dire, lo deve mettere in conto, però vale la pena, perché noi abbiamo un serio problema nel nostro paese che non può essere lasciato sotto la sabbia, e dunque ci dobbiamo spendere tutte anche e dobbiamo avere gli uomini accanto a noi. La convenienza è collettiva, non è di genere, la convenienza è per tutto il paese, quindi però vede, anche gli uomini devono essere più attivi in questo, specialmente per quanto riguarda la violenza sulle donne. Gli uomini che amano le donne, gli uomini che sono amici delle donne, gli uomini che mai alzerebbero le mani contro le donne, devono uscire allo scoperto, essere più attivi. E devo dire che in questo campo il Presidente del Senato è stato veramente esemplare, perché ci ha messo la faccia, è andato in TV e ha detto: io mi vergogno quando gli uomini commettono le violenze sulle donne, chiedo scusa a nome di tutti. Ecco. E per aver detto questo è stato anche attaccato. Speriamo che altre, molti altri seguiranno. Grazie alla Presidente della Camera Laura Boldrini, buona domenica. Grazie, a lei. Grazie a lei, arrivederci. Grazie. Nessuna è perfetta. Eccoci, allora torniamo a Nessuna è perfetta. Diceva la Presidente Laura Boldrini: ma ci vorrebbero gli uomini a sostenere il fatto che questo paese sta arretrando sul fronte della parità di genere e non sta andando avanti. Ricordo il report del World Economic Forum appena pubblicato, che vede l'Italia all'81esimo posto, cioè indietro di parecchie posizioni. Siamo anzi all'82esimo su 144 paesi, mentre nel 2015 eravamo al 41esimo. E allora, a proposito di uomini, vediamo che cosa ne pensa il vice direttore esecutivo di Radio 24. Siamo in casa sua, dunque Sebastiano Barisoni, buona domenica. È colpa vostra che non ci date abbastanza sostegno? Buona domenica, no, interessante essere invitato in quanto uomo. Sì, in quanto uomo, proprio non... così. Allora, no, vorrei prendere, se mi permetti Maria, il tema da un approccio anche di carattere economico, perché abbiamo citato anche noi venerdì scorso il dato del World Economic Forum, che è impressionante non solo per la classifica in sé dell'Italia, ma anche per le posizioni che abbiamo perso negli ultimi 2 anni, nel senso che noi eravamo, cito a memoria, 40esimi, poi siamo scesi al 50esimo posto e adesso all'83esimo posto. Quanto ad aumento delle disparità tra uomo e donna. Beh, a me sembra che, allargando anche l'orizzonte, qui siamo di fronte a due fenomeni sul mercato del lavoro. Uno è un mercato del lavoro che, anche quando ha dei segnali di recupero, mi riferisco al numero di occupati e quindi un'immagine anche di retribuzione, vede comunque dati positivi solo sugli over 50, e quindi abbiamo tagliato fuori il tema grosso anche in questi giorni di dibattito sull'età pensionabile, piuttosto che, come dice Calenda, pensare prima ai giovani. Stiamo tagliando fuori un'intera generazione, cioè non c'è un dato significativamente positivo negli ultimi anni che riguardi la disoccupazione giovanile. Sì, è un po' ridotta, ma resta a livelli altissimi. I dati che abbiamo sui neoccupati sono quasi tutti inerenti agli over 50. E poi abbiamo l'aumento anche delle diversità, famoso indice di Gini, tra uomini e donne. E quindi, te la faccio come battuta: se tu sei giovane e sei donna, questo è il peggior paese, certo, o uno dei peggiori paesi dove vivere. Le soluzioni, perché spesso ci dicono, ma che soluzioni voi vedete? Allora, ci sono delle soluzioni di carattere fiscale, da un lato, perché non nascondiamoci dietro un dito, queste diseguaglianze all'interno di professioni analoghe nascono anche da carriere diseguali, perché non sempre l'evidenza è a parità di ruoli e stipendi diversi, ci può essere anche questo, cioè, ma il vero problema è la carriera diseguale perché la donna risulta penalizzata non tanto per la maternità in sé, che è un diritto riconosciuto, ma per il post maternità, se posso permettermi, certo, questo modo, quindi tutto il carico familiare che le viene dato. Chiudo dicendo che il tema non si affronta dando piccoli incentivi all'occupazione femminile, che diventerebbero forse anche incostituzionali, ma si affronta tornando ai vecchi concetti dei cosiddetti coefficienti familiari. E cioè, se tu inizi a alleggerire il carico fiscale per chi ha una famiglia o dai delle agevolazioni serie alle mamme, che significano asili o detassazione, come avviene in Francia, per quello che riguarda le spese per la babysitter dopo il secondo figlio e quant'altro, tu indirettamente probabilmente risolvi un po' questo problema, perché io come donna non devo chiedere part time o non devo assentarmi troppo dal lavoro, posso anche riprendere un percorso normale di carriera normale all'interno di una maternità che chiaramente non è solo femminile. Allora, questo è il punto di vista di un giornalista che cerca soluzioni, perché Sebastiano Barisoni, come sapete, tutte le sere conduce Focus Economia e di questi temi si occupa. Qual è il punto di vista di Linda Laura Sabbadini, che è il punto di vista di una statistica che gioca con i numeri, e qual è la spiegazione che, Linda, tu daresti a questo crollo, diciamo, vistosissimo dell'Italia nella classifica del World Economic Forum? O appartieni anche tu alla teoria secondo la quale queste classifiche non contano perché sono manipolate? Allora, diciamo, queste classifiche, ci sono molti elementi che si potrebbero porre in discussione di queste classifiche, perché spesso questi indici non sono fatti adeguatamente, perché magari si prende in considerazione solo il gap tra uomo e donna e non si prende in considerazione il livello raggiunto, no? L'esempio in particolare sulla salute, in cui noi siamo posizionati malissimo, è però dovuto al fatto che si considerano le differenze di genere, non il livello di speranza di vita che si è raggiunto, che è molto più alto di quello di altri paesi. Quindi di critica a questi indici se ne possono fare tantissime, quindi non possono essere presi, diciamo così, acriticamente. Il fatto però qual è? Che a parte, diciamo, la metodologia che c'è dietro questi indici, si evidenzia una cosa che, come si diceva anche prima e diceva bene il vice direttore, cioè si evidenzia una cosa importante che noi sappiamo esistere nel nostro paese, e quella che comunque la giriamo, noi abbiamo un tasso di occupazione femminile che sta al 48%, 2 punti in più nell'arco di 10 anni, e effettivamente il problema è particolarmente grave soprattutto per le donne più giovani, ma anche per la fascia adulta, per tutti gli svantaggi che si cumulano nel corso della vita. È proprio così, i differenziali salariali sono più espressione delle differenze di opportunità che le donne si ritrovano nel percorso di vita. Non riesco a capire perché siamo crollati in 2 anni. Che risposta date, Sebastiano Barisoni e poi Linda Laura Sabbadini? Questo mi interessa poco, perché sai, queste classifiche del World Economic Forum delle volte sono fatte con indicatori un po' arbitrari. Penso che siamo crollati nel senso che non c'è stato nulla in questi anni di crisi, di politiche attive. Vedi, una cosa che a me fa girare le scatole, io so che il tuo programma, l'ho fortemente, diciamo, caldeggiato, si occupa delle donne, di questa trappola del multitasking, per cui ne facciamo troppe insieme. Vi freghiamo su questo. Però io devo anche dire che, come esperienza personale, in questo caso io vedo che la generazione mia, io ho 48 anni, insomma anche chi è più giovane di me, ha un approccio diverso nella divisione delle responsabilità. Poi sicuramente ancora non ottimale, sicuramente, ma non siamo più la categoria io vado a lavorare e lì finisce, portare i soldi esaurisce il mio contributo alla famiglia. Io incontro tantissimi padri che, come me, portano i figli alle varie attività, vanno a fare la spesa e quant'altro. quello che è mancato, questo mi fa girare le scatole, al di là della retorica sulla famiglia in cui questo paese si è riempito in ogni campagna elettorale, non mi ricordo chi mi ha detto, insomma, qua questo paese si occupa della famiglia o prima che esista, cioè leggi unioni civili, leggi diritto sì. all'aborto, leggi, o quando ormai sta per scomparire, leggi eutanasia. Quello che capita nel mentre, cioè quando la famiglia sì. esiste, diventa solo un oggetto di retorica elettorale. Abbiate, lo dico ai partiti, il coraggio di proporre il coefficiente familiare, che è già una prima soluzione. Perché lo dico? Perché vuol dire che il single non può essere tassato come lo stesso lavoratore, donna o uomo che ha anche una famiglia a carico. Devi includere il coefficiente familiare. E abbiate il coraggio di fare politiche proattive per le donne o per i padri, nel caso fossero loro, che consentano anche che cosa? Di scaricare un po' del costo economico. Due, di agevolare, perché vedi, io qui faccio così il manager, se mi passi il termine, è chiaro che se io so che tutte le responsabilità, perché mancano gli asili nido aziendali, mancano le strutture flessibili, si scarica sulla donna, quello di cui parlava la Sabatini, è chiaro, cioè le possibilità che vengono offerte come carriera non è a parità di ruolo uno stipendio così diverso, il problema è che l'uomo fa carriera più perché è considerato più affidabile da questo punto di vista, e cioè è considerato sostanzialmente come un uomo che da questo punto di vista ha e dà tutta la sua disponibilità. Coefficiente familiare, Linda Laura Sabatini, siamo in chiusura, volevo capire, basterebbe questo per recuperare punti nella prossima classifica del gender gap? E perché i politici che, come ricordava Sebastiano Barisoni, sono prontissimi a parlare di famiglia in campagna elettorale, il giorno dopo le elezioni se ne dimenticano, ma mi tocca dire anche le parlamentari se ne dimenticano, perché non fa... Perché tanto ci sono le donne che le cose le portano avanti comunque. Allora, il problema vero è questo. Emma Bonino, quando è stata elevata l'età pensionabile, propose per le donne, se vi ricordate, propose che tutto il tesoretto che veniva fuori da quel risparmio su gli anni, no? Che di pensione che non venivano pagati alle donne, andando più tardi in pensione, doveva essere impiegato in particolare per risolvere il problema del sovraccarico di lavoro di cura sulle spalle delle donne. Questa cosa non venne fatta e quel vero e proprio tesoretto che c'era andò a finire nel calderone. Il problema vero è che non c'è bisogno di una misura, c'è bisogno di un sistema di misure, c'è bisogno di un tesoretto vero che affronti decisamente il problema della rigidità dell'organizzazione del lavoro, della redistribuzione del lavoro di cura nella coppia e della redistribuzione del lavoro di cura nella società attraverso i servizi. Per fare questo ci vuole molto, molto investimento, non è spesa, non è spesa sociale. Questo è investire sul futuro del nostro paese, sulla qualità della vita non solo delle donne, ma di donne, uomini, di bambini, anziani, di coloro di cui le donne si sono sempre fatte carico. E allora, continuano. O si capisce questo e ci si investe una volta per tutte ad ampio spettro e non con una piccola misurina, un passetto per volta, oppure noi saremo sempre gli ultimi in classifica. In chiusura, ecco, Sebastiano Barisoni, non si parla ancora di programmi in campagna elettorale, ma non mi sembra che questi temi siano minimamente affrontati. No, comunque. Vedi, è più facile parlare del ius soli a favore o contro, è più facile fare la sparata contro i flussi migratori, che per carità vanno gestiti, ma quelli legali non sono un'emergenza, che capire che quanto ricordava adesso la Sabatini va a impattare direttamente anche sul nostro grosso problema, che è l'indice demografico. È dimostrato che le uniche aree in Europa in cui si fanno più di due figli, cioè hai un tasso di ricambio che ti permette di mantenere la specie, chiamiamola in questo modo, Sono la Francia e il Trentino Alto Adige. Guarda caso, sono la Germania è messa peggio di noi e via così. Sono le uniche due aree in cui esistono politiche attive per le donne che hanno figli. E quindi torniamo al bonus, non il bonus bebè che abbiamo visto noi, lo scaricamento fiscale di tutte le spese per la TAT e quant'altro. Allora, delle due l'una: o decidiamo che abbiamo bisogno dei migranti regolari perché ci condanniamo a un tasso di demografia e di natalità che inesorabilmente farà scomparire manodopera per i prossimi anni e lavoratori italiani, e allora ce la mettiamo via, oppure non ci condanniamo a questo, diciamo va bene, ma iniziamo con delle politiche proattive. Quello che mi fa girare le scatole è vedere che da un lato si fa la sparata demagogica, via tutti, blocchiamo tutti i flussi migratori, dall'altro non si fa nulla per permettere agli italiani, sempre evocati come la famiglia, il sacro sangue della patria evocato sempre in campagna elettorale, poi stringi non c'è un euro per la famiglia serio, sì qualcosa messo il governo in finanziaria, non c'è una politica, come diceva Sabatini, sistemica, non gli 80, i 100, il bonus a 500, e soprattutto non c'è nessuna politica fiscale per la famiglia che dica bene, noi crediamo che sia importante anche mantenere un tasso di natalità in Italia, poi i migranti arriveranno e per questo facciamo. No, è più importante la sparata demagogica, perché quella ottiene presa magari elettorale subito, ma nessuna modifica sociale nel medio termine. Mi sembra che la pensiate veramente allo stesso modo. Io ringrazio Sebastiano Barisoni e Linda Laura Sabarini per essere stati a Nessuna è Perfetta. Grazie a entrambi. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Nessuna è perfetta. Eccoci, ultima parte di Nessuna è perfetta, e torna a grande richiesta la nostra love coach, la coach dell'anima, delle cose personali, Elisa Bulgheroni, psicologa, formatrice e consulente in ambito psicopedagogico. Buona domenica a tutti, ciao. Elisa, abbiamo parlato del divario sempre più ampio che purtroppo va delineandosi tra uomini e donne nel nostro paese e non solo. Ci manca forse un po' di autostima, manca la voglia di volersi bene alle donne. Amarsi un po', come era la canzone di Battisti. Ma le donne sono capaci di amarsi o la prendono alla lontana? Allora, resto stupita, e credo che anche noi, se ce lo con spontaneità e autenticità ce lo dicessimo, è che quando si chiede a una donna se ti ami, inizia molto la larga di tutte le cose che fa. Cioè, come quasi che l'amarsi o l'essere sia confuso con quello che fai. Per cui ti fanno un elenco di tutte le cose meravigliose che fanno durante la giornata, di come si dedicano il tempo, non possono dedicare il tempo. Dicono magari faccio Pilates, faccio un massaggio. Sì, mi curo con una dieta. E questo ha a che vedere con il mondo di quanto abbiamo bisogno di sentirci perfette, di quanto spaventi la imperfezione. E la cosa più meravigliosa che si possa insegnare a una bambina, che poi sarà una futura donna, e poter dire che bello poter essere imperfette, perché ci appartiene. È il mantra della nostra trasmissione, Nessuna è perfetta. Per quello che te lo aggiungo. Io credo che a una donna possiamo ricondurla a cosa è amarsi quando ci colleghiamo, ci connettiamo con un'emozione molto tenera, che è la tenerezza. Se noi riusciamo anche, e chi è madre lo sa, di quanto questa funzione di mamma nella tenerezza, di prendersi cura dell'altro, di prendersi cura di un bebè, di prendersi cura di un bambino, di poter essere teneri, giustificativi, gentili. Se in questo stesso modo noi potessimo prenderci cura di noi, di arrivare a sentirci che l'amore esiste, che è un'energia dove noi con la unica nostra presenza già creiamo e espandiamo questo amore, e che ci occorrerebbe che noi possiamo essere davvero gentili con noi stessi, affabile, poter entrare anche in questo dialogo di pensieri, visto che ne abbiamo 70.000 al giorno come minimo, poter anche giustificarci, perdonarci anche di quelle scelte che abbiamo fatto in età diverse, però che era l'unica scelta che possiamo fare. Ma dottoressa Bulgheroni, essere gentili con noi stessi significa anche dirselo, Maria, non devi preoccuparti perché non sei capace di usare bene le tecnologie. Ti devi volere bene, io ti voglio bene lo stesso, me lo dico a me stessa. In qualche modo è poter, visto che i pensieri sono in qualche modo il linguaggio della nostra mente e il linguaggio del nostro corpo sono le emozioni, quindi quando noi sperimentiamo emozioni e pensieri si crea un'esperienza di vita. Se noi riusciamo a andare a incontrare quell'esperienza di vita che non sono brava, non hai fatto bene questo, che è un po' accusativo, quasi come un dialogo interno fra una bambina e una mamma o un adulto, andare a poter dirci ok, a 20 anni hai fatto questa scelta, perfetto, potevi fare solo quella, pazienza, non entrare nel senso di colpa, non entrare nella punizione, non entrare in quello che è mentale, ma di poter abbracciarci. Io credo che dovremmo abbracciarci con gentilezza, perché solo se noi riusciamo ad amarci in modo affabile e amorevole possiamo far sì che arrivi l'amore degli altri a noi. Non possiamo dare niente di quello che noi non abbiamo e non possiamo ricevere niente di quello che noi non abbiamo. Quindi dobbiamo abitarci d'amore per far sì che l'altro arrivi con amore in tutte le nostre relazioni. Per capire qual è la differenza tra il volersi bene e invece l'autocompiacimento, il narcisismo, il pensare ah, io faccio tutto bene, cioè bisogna essere chiari, perché magari qualcuno pensa che volersi bene sia anche autoassolversi di ogni responsabilità, errore che si fa, di ogni responsabilità. La responsabilità oltretutto è una capacità di saper rispondere in modo adeguato alle cose. Cioè, c'è una perfezione che va attraverso l'ego, no? Che è quello che in qualche modo è molto presente nella nostra vita, ci fa confrontare, ci fa essere quelli che vogliamo essere, più alti, più fighi, più belli, più e che si inseguono obiettivi di perfezione quasi irraggiungibile. L'amore passa per la tenerezza, passa per un'emozione che vibra a livello di cuore, a livello di petto, a livello di respiro, e quasi esserci in questa gratitudine del vivere, del respirare, dell'esistere. Vive in un'energia totalmente diversa, quel dialogo mentale che ci fa dire quanto bravo siamo o quanto lo dobbiamo essere. L'amore è l'accettazione di quel che sei, anche con i tuoi errori, anche con le tue imperfezioni, anche con la tua cellulite, anche con la tua stanchezza del giorno, e il non dover rincorrere continuamente un ideale. In questo caso stiamo parlando della donna, per cui un ideale di donna. Grazie Elisa Bulgheroni, con noi anche questa domenica, e grazie a tutti voi per averci seguito. Se volete sapere di più di quello che possiamo fare per stare meglio con noi stesse e anche per occuparci un po' del lato più personale e privato della nostra vita, scrivete a nessunaeperfetta@radio24.it e seguiteci su Twitter. Noi ci fermiamo qui, come sempre, per ritrovarci domenica prossima.